Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Thank you. terrorist succeed? He won't. I understand that it is highly unlikely, but if he does... If he does, and something happens to that building, the only thing that will change, the only difference that it will make, is that tomorrow morning, instead of a newspaper, I will be reading Mr. Creedy's resignation! We'll be right back. In primo luogo, la sua infanzia da cucciolo, la sua ben protetta adolescenza nella casa paterna di Camden, sopra il paterno negozio di calzature. Per 17 anni, l'adorato rivale di quell'indefesso collerico Scarparo, nient'altro amava dire che un povero ciabattino, ma aspettate, diceva, e vedrete, che gli dava da leggere da ragazzino l'arte di conquistare gli amici di Dale Carnegie, onde temperarne l'arroganza, e gli offriva il proprio esempio, onde rafforzarla. Se ti mostri così strafottente con il prossimo, Nettie, figlio mio, finirai eremita, scansato da tutti, un nemico del genere umano. Ma intanto, giù al negozio, quel Polonio non dimostrava altro che disprezzo per quei commessi che non fossero, come lui, ferocemente attaccati al lavoro. Questo era l'incipit di My Life as a Man, di Philip Roth. Che tripletta di brani, che tripletta vi siete già ascoltati in questa seconda parte di Eclettica, sicuramente tre fra le migliori scelte di queste ultime settimane, come dimostrano anche le playlist che vi ricordo potete ricevere direttamente nella vostra casella di posta, se parte della lista nera, oppure trovare su myspace.com/eclettica. Nell'ordine ci siamo ascoltati prima Get Well Soon, poi Sunset con le tre parentesi graffe ad aprire e chiudere il nome, poi Gringo Star e chissà se in queste scelte potranno rientrare anche gli Young Lords, la band che ci stiamo per ascoltare. Prima vi ricordo che Eclettica va in onda tutti i giorni, fra le 19 e le 20 sulle frequenze di Rock FM, con Giulio Caperdoni che risponde all'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com e che coglie l'occasione anche per ricordarvi che il tutto è disponibile in podcasting. Young Lords, dicevo, formazione, per la precisione quintetto newyorkese che si rifà agli anni 60, rende omaggio ai primi Rolling Stones, ai Kings, un po' come dall'altra parte dell'oceano dichiarano di fare anche gli Oasis, no? Young Lords che ci ascoltiamo con Rodeo Songs. seen anything like it. Tanks, anti-aircraft, infantry. Makes you wish that no one would show up tonight. But if they do, what do you think will happen? Well, it usually happens when people without guns stand up to people with guns. Seppi dell'esistenza dell'altro Philip Roth nel gennaio 1988, alcuni giorni dopo Capodanno, quando mio cugino Apter mi telefonò a New York per informarmi che la radio israeliana aveva riferito che mi trovavo a Gerusalemme per assistere al processo di John Demjanjuk, il presunto Ivan il Terribile di Treblinka. Apter mi disse che il processo Demjanjuk veniva trasmesso ogni giorno, nella sua totalità, dalla radio e dalla TV. Secondo la sua padrona di casa, ero apparso fugacemente sul teleschermo il giorno prima, identificato dal commentatore come uno degli spettatori presenti in sala e poi, proprio quel mattino, aveva udito lui stesso alla radio una notizia che lo confermava. Questo era l'incipit di Operazione Shylock di Philip Roth. Start a family tree. Like a couple of words starting with the same letter. I want a little rain with you. I want to sound clever. We don't quite fit. We don't really rhyme. But we got a good meter going when we grind. We slant to the beat. And we slant to the melody. It feels like we fit when we're dancing on MTV. And I are meant for each other. A literary device. Alone we're just but together we're lovers. for your hugs I will miss. It hurts, but it's all worth the pain. Oh, if only for the little love. Hearts by my I love you forever. Oh, I love you forever. What I'd give to have spent these last 4 years together. Together we're lovers, you and I are meant for each other. Stumbling, tumbling, falling apart, we're just but together we're lovers. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 20, volume numero 2, indice, Jim Noir, Wolfkin, LCD Sound System, Chris Bathgate, Lilith and the Sinner Saints, Mademoiselle Caro e Fran Gracia, Get Well Soon, Sunset, Gringo Star, Young Lords, Sheer Water, The Terror Dactyls assieme a Kimia Dawson. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.